Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Ma c'era in questa assenza qualcosa di più profondo, di più gravido di destino. Don Sebastiano era nuorese e avrebbe avuto un albero genealogico tutto di nuoresi se avesse potuto concepire il passato. Quelli che facevano politica, i candidati, erano tutti dei paesi, di Orune, di Gavoi, di Olzai, di Orotelli, persino di Ovodda, quei minuscoli centri, biddas, ville, lontani quanto le stelle l'uno dall'altro, che guardavano a Nuoro come alla capitale, paesi di pastori, di contadini, di gente occupata a contare le ore della giornata, ma i cui figli avevano scoperto l'alfabeto, questo mezzo prodigioso di conquista, se non altro di redenzione dalla terra arida, avara. Gli zii, come si chiamavano questi rustici anziani dalle grandi barbe, entravano a Nuoro avvolti nei costumi nuovi, come in un salotto, e vi andavano per testimoniare o per parlare con l'avvocato o col notaio, quando non vi erano condotti ammanettati, una due volte all'anno, traendosi appresso i figli. Questi, vestiti da civili, ridicoli ai loro stessi occhi, vergognosi a poco dei padri, di fronte a quei signori non meno sfaccendati, ma che sedevano ai tavolini del caffè come esercitando un loro diritto di casta, vedevano le immense vetrine nelle quali si spandevano dolciumi o giocattoli o libri, si esponevano manichini senza testa, vestiti di abiti fatti, tutti corrosi magari o ammuffiti, ma che erano il segno di una cosa mai vista e neppure immaginata. La ricchezza del danaro, tanto diversa da quella delle pecore e delle capre. Quell'avvocato e quel notaio di Nuoro che parlavano coi loro padri un sardo più raffinato del loro olzaese o orunese o gavoino erano uomini che sapevano, anche se essi non capivano quel che dicevano, e sapevano perché erano nuoresi. Si formava così nella loro mente l'idea che bisognava diventare nuoresi per essere qualcuno, e quest'idea li spingeva a studiare, ad andare al ginnasio, al liceo e a correre anche la grande avventura dell'università, se possibile con l'aiuto del collegio delle province, che era tutto quel che restava del regno di Sardegna, altrimenti barattando il campicello paterno. Ma anche a Torino o a Sassari o a Roma, la meta era sempre Nuoro, la meta o il campo di battaglia, non importa. Irrompevano infine nella città murata, come il sangue plebeo nelle vene di un nobile fatiscente, intelligenti, astuti, sprezzati ma non sprezzanti, avevano sui nuoresi un solo ma grande vantaggio, sapevano quel che volevano. Certo, nuoresi non potevano diventare, se non altro per via della lingua, che dopo 20-30 anni conservava ancora le tracce del paese d'origine. Ma l'asse del lavoro si spostava sempre più verso questi estranei. Tra l'altro, si portavano appresso la litigiosa clientela dei loro paesi, e chi lavora ha sempre ragione su chi insegue le sue chimere e intanto non lavora. Aveva voglia Francesco Cossu Boi, detto Cossu Poltrone, un mezzo pittore morto di fame che nessuno ha saputo mai come vivesse, di rispondere a chi gli offriva qualche lavoro: i boi non hanno mai lavorato. Ma poi questi furbi timorosi di fronte ai nuoresi, anche ai più miseri, sapevano come si faceva a diventarlo. Nelle lisce muraglie di quelle antiche corrose case civili c'era un varco invisibile, ma sicuro, ed erano le donne. Ne erano tutte piene, perché pareva che i nuoresi, quelli degni, avessero la vocazione del celibato. In realtà il matrimonio diventa impossibile a chi non riconosce la semplicità della vita. Così deridevano quelle donne ricche e pallide che sognavano e intristivano nella clausura e apparivano qualche volta dietro i vetri come fantasmi o uscivano per andare alla messa. Gli estranei sapevano il valore, a parte anche l'eredità, di quelle donne e d'altronde non si presentavano soltanto come cacciatori di dote, ma mettevano sulla bilancia la spada di Brenno della loro operosità. Le zitelle erano ben felici di lasciare nei lugubri palazzi il loro titolo di donna per abitare le case linde e di cattivo gusto della nuova gente che già cominciavano a sorgere nella periferia. E Don Serafino, Don Gabriele, Don Pasqualino, che cosa potevano fare se non aprire la porta ai richiedenti, magari per subito richiuderla? La vita era in mano loro. Certo, nessuno di loro avrebbe potuto trattare una causa come la trattava un avvocato di Nuoro, ma grazie, questi ci mettevano 20 anni. Ci dovevano mettere 20 anni, perché le cause sono una cosa seria, laddove quelli, con 4 sciabolate, aggiustavano tutto. Nuoro era per i nuoresi una di quelle grandi e tristi donne e solo un estraneo poteva intuire la somma di potere che in essa si nascondeva, cioè che cosa volesse dire averne in mano l'amministrazione. Don Sebastiano, in fondo, e quelli che come lui operavano per l'edificazione di una casa e di una famiglia non potevano capire la cosa pubblica per la semplice ragione che si identificavano con essa. E anche i poveri, anche la grande massa di quelli che avevano scelto l'ozio come la loro occupazione, non avrebbero potuto sentire diversamente. Certo, 7.051 persone avevano comuni bisogni a cui qualcuno doveva provvedere, ma in definitiva di che cosa si trattava? Dell'acquedotto, con quel po' di spesa che comporta, per non dire delle acque che vengono sottratte alla campagna, non era il caso di parlare. Non bastavano quelle miserabili fonti alla periferia del paese, Obisti, Istiritta, dalle acque freschissime che nel crepuscolo le serve, Sasterracas, portavano a casa nelle anfore posate lievi sulla testa, appena protetta da un cercine. Ancora oggi, che ci sono tanti acquedotti, i veri nuoresi disdegnano quell'acqua che passa nei tubi e mandano a prendere l'acqua antica sul monte. L'illuminazione, certo, con la vita che cambia non si poteva continuare a procedere per le strade coi tizzoni accesi quando si usciva di notte, e si usciva solo quando c'era bisogno. E infatti Don Priamo, il fratello di Don Sebastiano, quando era stato sindaco se n'era occupato. Era rimasta anzi memorabile la seduta perché il consiglio voleva limitare l'illuminazione a petrolio alle sole notti in cui non c'era la luna. Ma Don Priamo aveva chiuso la bocca a tutti osservando: «E che cosa ne sappiamo noi se in quelle notti non ci sono le nuvole?» Ancora se ne vantava. Gli abbeveratoi ai 3 ingressi del paese c'erano sempre stati, e gli stessi contadini che arrivavano coi gioghi assetati per le lunghe salite provvedevano a pulirli, liberandoli dal muschio e dal lichene. Insomma, tutto era a posto e ciascuno era al suo posto nel bene comune. Ma gli estranei avevano capito, proprio perché erano estranei e avevano tirato fuori le donne dai loro sepolcri, che l'amministrazione di Nuoro non era in queste piccole cose, ma in ben altro, nel potere che si acquistava. Essere sindaco significava anzitutto vedersi i nuoresi e Don Sebastiano, Don Gabriele, Don Pasqualino, venire avanti col cappello in mano a chiedere qualche cosa. E, antivedendo il futuro, gli estranei sapevano che essi avrebbero avuto sempre più bisogno di qualcosa dall'amministrazione. Significava concedere questo qualcosa. Ed era tanto più importante perché il potere, contro le apparenze, si manifesta più col dare che col togliere. Poi c'era un'altra cosa che i nuoresi non avevano avvertito, che la città o borgo che fosse non erano soltanto loro, ma erano la gente venuta di fuori, dal remotissimo continente, il sottoprefetto, il comandante della guarnigione, il capitano dei carabinieri, il presidente del tribunale, impiegati, va bene, ma attraverso loro Nuoro non era più o non era soltanto Sardegna, era un frammento dell'Italia, comunicava con l'Italia e gli orizzonti si facevano più vasti. La conquista dell'amministrazione era anche la strada aperta alla politica, a Roma. In breve, i nuoresi si trovarono amministrati, rappresentati dagli estranei e in fondo non se ne dolsero. Era un fastidio di meno. Don Sebastiano non parlava di politica, ma riferiva del re che per il suo compleanno aveva ospitato 100 bambini poveri al Quirinale e il pranzo era stato servito dalla regina e dalle principesse. Don Sebastiano non era monarchico se non in quanto c'era il re, né pensava neppure che potesse non esserci, ma che il re, in nome del quale redigeva gli atti sulla carta bollata, e non gli veniva in mente che il bollo fosse una tassa o un'imposta, era ciò che dava valore alla sua professione, si umiliasse ai poveri in questo modo, lo commuoveva profondamente, come lo commuoveva il racconto di quel ministro che era stato in visita al suo collegio. Gli avevano preparato un gran pranzo e aveva trovato che avevano disposto una tavola a parte per lui e per il suo seguito, ma non aveva voluto sedersi fino a quando tutti i tavoli non fossero stati riuniti. La sua parola si spegneva leggermente nella gola, ma non era sentimento. Era che queste cose davano pregio alla vita, in cui credeva perché viveva. Così dava pregio la notizia che a Milano un medico aveva iniettato su un suo figliolo un siero contro non so quale malattia, o che a Torino un deputato aveva costretto una guardia a infliggergli una multa per un fallo che aveva commesso, o che era stata ottenuta per via di incroci una nuova razza di pecore che dava 100 litri di latte per capo. Le pecore sarde arrivavano a 20 nelle buone annate, o che una nave era affondata nell'Atlantico e il comandante aveva rifiutato di scendere nella scialuppa, neppure per ultimo. Non tutti ascoltavano questi discorsi, ma Don Sebastiano parlava in fondo solo per se stesso. Ripeteva quel che aveva letto senza dubitare un momento che potessero essere panzane. Il giornale non era come oggi un'impresa commerciale, era anche il Giornale d'Italia, nonché il Corriere della Sera, che non pubblicava mai una fotografia, ma in Sardegna non arrivava, un residuo di enciclopedia, una fonte di sapere, l'unica fonte in un piccolo paese, ed era impossibile non credere a quel che diceva, perché altrimenti l'avrebbero detto. Vi era nel fondo come un prolungamento del secolo dei lumi in Don Sebastiano e negli uomini del suo ceto verso la fine dell'Ottocento, che si manifestava in un sereno e assolutamente inconsapevole ateismo, senza avversione per la religione e neppure per i preti, che pure a Nuoro erano uno stuolo nutrito di una certezza nel potere dell'uomo sulle forze della natura. L'ateismo è un momento statico della vita. E la vita allora era statica, simile al piano di una scacchiera su cui si possono giocare migliaia di partite, ma le combinazioni non sono infinite. L'infinito era forse, chissà, in qualcuno di quei ragazzi, se mai avesse sentito crescendo di non potersi ridurre a pedina o a fante e neppure a re. O era in quella povera donna senza speranze che ascoltava dal suo silenzio le chiacchiere di Don Sebastiano con qualche sordo, inascoltato commento. Ma poi vi era un'altra componente in Don Sebastiano e nei suoi vani discorsi, ed era la democrazia, anche questa naturalmente inconsapevole, ma certa. Don Sebastiano poteva ormai considerarsi ricco o almeno avviato alla ricchezza, ma sentiva che se questa era legittima, perché frutto del suo lavoro e accumulata secondo un ordine provvidenziale, se necessariamente si lasciava dietro di sé torme di poveri, a nuoro nel mondo, questo non faceva differenza nell'umanità della persona. Quei poveri potevano e dovevano essere i ricchi di domani. Che facesse elemosine è dubbio, però dava lavoro a tanta gente nelle sue piccole bonifiche e gli operai gli chiedevano la carità che tenesse a battesimo i loro figlioli, ciò che egli faceva di cuore, diventando loro compare e passando con loro da lei al voi, secondo l'usanza. Di qui la commozione per il re o per quel ministro di cui aveva letto sul giornale, ma anche qualcosa di più serio, una specie di nostalgia della povertà, di concezione della povertà come esperienza o esercizio spirituale, di esaltazione del lavoro manuale di fronte al lavoro della penna e della mente, che non poteva esaurire la sua profonda umanità perché era redditizio. Il suo sogno sarebbe stato se i figli, man mano che crescevano e si avviavano agli studi con grande successo, si dedicassero a qualche mestiere fuori delle ore di scuola. Non lo diceva apertamente, ma raccontava tutte le sere e anche quella sera che i figli dei miliardari americani si guadagnavano il pane facendo gli strilloni. L'aveva appreso dal giornale e la sua voce assumeva il tono di una lezione e di un oscuro rimprovero. Era allora che Donna Vincenza usciva dal suo silenzio, perdeva ogni ritegno, ridiventava se stessa, perché era lei che lavorava in cucina con l'aiuto di una povera donna che veniva solo per il cibo, era lei che vedeva i figli assottigliarsi sui libri e uno soprattutto, Ludovico, le dava tanta preoccupazione perché cresceva magro, delicato, con la pancia sempre in disordine e non riusciva a fargli smettere di studiare. Ma quelli là, urlava, hanno tutte le comodità, non sono come noi. Distrutto nel suo sogno, Don Sebastiano si alzava, riprendeva il suo lume e, volgendosi verso quella massa scura, dimenticata, in un angolo, diceva solenne: «Tu stai al mondo soltanto perché c'è posto», e se ne andava, senza nemmeno augurare la buonanotte. Così finiva quella serata, una delle tante serate della vita familiare, della famiglia che Don Sebastiano e Donna Vincenza in tanti duri anni di discussione avevano pure creato. I figli se ne andavano nelle gelide stanze da letto all'ultimo piano. Ludovico aiutava la madre ad alzarsi dalla sedia e la reggeva su per le scale che le diventavano faticose. Sebastiano, che ripeteva il nome paterno, doveva provvedere a chiudere la finestra che dava sulla strada. Per curarsi della facciata, quella bestia di Don Gabriele Mannu aveva fatto la finestra tanto alta che si erano dovuti poi fare due gradini di legno per potersi affacciare. Sebastiano si arrampicava come poteva, sostava un momento prima di tirare a sé le persiane. Nella notte profonda, Nuoro si stendeva percorsa da un vento gelido. Rotolava lontano un carro sul selciato, non una voce. Due carabinieri in pattuglia, rigidi e annoiati, venivano su per il corso. Faceva quasi paura. Thank you. Tony Servillo ha letto Il giorno del giudizio di Salvatore Satta, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.